Lo sciopero è rivolto a tutte le categorie del comparto del pubblico impiego. Si è provato a lanciare uno sciopero di generale del comparto pubblico e privato per il 12 aprile, ma purtroppo la legge antisciopero ci ha impedito di costruire uno sciopero generale, per cui abbiamo mantenuto lo sciopero di pubblico impiego per il prossimo 10 maggio. Le motivazioni sono differenti, riguardano sostanzialmente un mancato di investimento nei settori del pubblico impiego, che poi sono settori di welfare e quindi che riguardano strettamente i cittadini e i diritti a fruire di scuola, sanità, giustizia e quant'altro, e quindi diritti efficienti, insomma. Sostanzialmente questo. Poi abbiamo un pericolo in vista perché viene dibattuta in Parlamento in questi mesi la legge sull'autonomia differenziata. Qualcuno l'ha chiamata la secessione dei ricchi o regionalizzazione, cioè il tentativo di conquistare un'autonomia legislativa su una serie di voci tra le quali praticamente risulta escluso solo l'esercito, in sostanza. E quindi è un pericolo per noi perché a quel punto allo Stato rimarrebbero solo gli ordinamenti generali per normare i diritti ai cittadini, mentre alle regioni spetterebbe una larga autonomia decisionale e legislativa. E questo ovviamente vincolerebbe tutta una serie di servizi pubblici al gettito fiscale, tale per cui le regioni del nord Italia, che attualmente sono regioni più ricche, potrebbero fruire di un welfare migliore rispetto alle regioni del sud Italia, senza pensare però che in realtà la stretta economica voluta dall'Unione Europea in futuro riguarderà anche le regioni e gli enti locali, non solo lo Stato come oggi. Quindi in realtà è una normativa miope che dà la sensazione ai cittadini di risolvere quelle mancanze che ci sono nel welfare pubblico a breve termine, ma nella lunga durata, oltre a aumentare le disuguaglianze e il divario tra le regioni del nord e le regioni del sud, in realtà non produrrà quei benefici che attualmente si promettono. Quindi uno sciopero contro la regionalizzazione, contro l'autonomia differenziata, vogliamo che venga ritirato completamente quel percorso legislativo avviato da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, e ovviamente poi in contemporanea noi vogliamo maggiori investimenti nel pubblico, nelle infrastrutture, nelle assunzioni, nella fine del precariato, negli investimenti economici seri che ci permettano di dare ai cittadini un servizio pubblico di qualità. E in particolare, nell'ambito della scuola, diciamo, si sono toccati due temi principalmente, oltre a quello, dell'autonomia differenziata, ovvero quello da una parte dello sblocco, degli aumenti salariali, diciamo, dopo 9 anni di blocco che sono stati ventilati per tutto il pubblico impiego da quest'ultimo governo, ma di fatto praticamente inesistenti, e dall'altra la questione in particolare per il personale ATA, per il diritto alle assunzioni. Guarda, nella scuola l'aumento contrattuale dello scorso anno è stato irrisorio. Persino il Sole 24 Ore l'ha definito un aumento elastico perché una parte di questo aumento è a rischio ogni anno perché è definito da un fondo perequativo che, se non viene stanziato nella legge di bilancio, l'anno successivo non c'è. Quindi è come dire, un aumento contrattuale che, oltre a essere ridicolo e irrisorio, in realtà appunto potrebbe addirittura diminuire negli anni. Il contratto rinnovato l'anno scorso è già scaduto a gennaio 2018 e andrebbe rinnovato, ma servono soldi perché ovviamente la scuola, come anche altri settori del pubblico, non può accontentarsi sempre di aumenti da fame. Attualmente noi sappiamo dal DEF, dal documento di economia e finanza, che non ci sono soldi fino al 2020, quindi l'accordo in base al quale i sindacati CGIL, CISL e UIL, SNAL, SGILDA hanno ritirato il loro sciopero è un accordo fondato sul nulla perché sappiamo che questi soldi non arriveranno prima del 2020 proprio per quelle politiche ristrette dell'Unione Europea del vincolo di pareggio di bilancio in Costituzione che ci impediscono di stanziare dei fondi. Detto questo, noi vogliamo sicuramente degli aumenti salariali che siano cospicui. Nella scuola si perdono in media 12.000 euro a testa a lavoratore attualmente, oltre ai tassi di inflazione che cresceranno, se si parla adesso di aumentare l'IVA. Allora, in questo modo non ne usciamo. In più, in contemporanea aumentano i carichi di lavoro e aumenta lo stress da lavoro correlato, per cui noi abbiamo un personale docente che è immobilizzato, dalla buona scuola è stato sparpagliato in giro per l'Italia e non riesce a ritornare nelle province di origine perché gli organici dei precari su quei posti non si può spostare il personale di ruolo. Precari che sono da anni lavorano nella scuola, i quali adesso si richiede di sottoporsi a concorsi e selezioni tortuose, complicate, ma nel frattempo continuano a lavorare nella scuola però da precari. e il personale ATA, che è fortemente ridotto, sia il personale amministrativo, sia i collaboratori scolastici, ma anche i tecnici, fortemente ridotti di numero, con un aumento dei carichi di lavoro mostruoso a seguito delle varie parti della buona scuola, le convenzioni di alternanza scuola-lavoro, l'aumento del numero degli studenti, che tra l'altro popolazione scolastica studentesca che cresce in particolare in Emilia-Romagna, quindi in controtendenza rispetto al resto dell'Italia, e organici del personale ATA che sono così ridotti che ovviamente gli aumenti dei carichi poi comportano quei mali di burnout, di stress da lavoro correlato, ai quali però non l'amministrazione non continua a non rispondere. Quindi l'utenza ha la sensazione di un lavoro meno efficiente, ma in realtà sono i contesti scolastici che sono deprivati delle risorse umane. Noi diciamo sempre in USB che appunto la scuola sì, si fa con le LIM, si fa con le strumentazioni tecnologiche, ma di sicuro non si può far scuola senza le risorse umane.